Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Alessandro Amadori, psicologo e autore del libro Madre Silvio, sulla parte femminile e materna di Silvio, appunto. Cosa dirai, come commenterai i fatti della settimana? Scopritelo ascoltando Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.